vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Come è nato? In un bocile oppure nato da una madre che le ha insegnato qualche cosa? Sua madre che cosa le ha insegnato da piccolino? A Cruciani, ha decaduto! Lei sta diventando una persona spregevole. Oh, ma vattene a zappa la vera! Questo non credo. Assume risvolti davvero sempre più paradossali la vicenda del sindaco Marino al seguito del Papa a Filadelfia. Durante uno scherzo telefonico, Monsignor Paglia ha confermato: nessuno l'ha invitato e il Papa è inferocito. Lo dico in toscano, sei imbucato. E certo che sei imbucato. La zanzara colpisce ancora. Nel celebre programma di Radio 24, un finto Renzi telefona a Monsignor Paglia, nel mirino il sindaco di Roma. Non si placano le polemiche sul sindaco di Roma, Ignazio Marino, e sul suo ultimo viaggio negli Stati Uniti durante la visita del Papa. Ieri ancora uno strascico imbarazzante. Sentiamo Matilde Germani. Non ho invitato il sindaco Marino. Il Papa era stato chiaro durante la conferenza stampa sull'aereo di ritorno dagli Stati Uniti. Alla domanda sulla presenza di Marino a Filadelfia, viaggio che non poche polemiche aveva suscitato in Italia, Francesco aveva risposto che né lui né i suoi collaboratori lo avevano invitato. Stessa precisazione ieri mattina sulla stampa da parte del sindaco di Filadelfia, una vicenda che ieri sera ha avuto ancora un risvolto imbarazzante. Nel corso del programma radiofonico La Zanzara, un imitatore di Matteo Renzi ha chiamato al telefono Monsignor Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. L'alto prelato si sfoga. Come sono andate veramente le cose? Chiede il finto premier. Ed il vescovo cade nel tranello. Nessuno lo ha invitato, precisa, ha brigato per sfruttare questa situazione. E poi ancora, Marino si è imbucato. Allora, mi giunge notizia, caro Parenzo, che il signore, paese ipocrita che siamo. Siamo veramente un paese di merda, guarda. Veramente un paese di merda. Solo quando interessa, solo quando si colpiscono, comunque vengono messi in ballo gli interessi, vengono chiamati in causa gli interessi del Vaticano, in questo caso, forse anche del sindaco di Roma, allora si muove qualcosa. Qualcuno ha protestato, i signori della privacy, il garante per la privacy, che pare abbia avviato una valutazione su Monsignor Paglia semplicemente perché sotto ordine del Vaticano. Oggi Monsignor Lombardi, il capo della sala stampa Vaticano, una persona che apprezzo anche, ha detto che è stato uno scherzo inaccettabile, eccetera eccetera. Il garante per la privacy avvia un'inchiesta o comunque in corso accertamenti. Allora perché il signor garante della privacy non ha avviato degli accertamenti? Gli do anche un'indicazione, se vuole, lo sto stuzzicando assolutamente. Perché mi sono veramente rotto i coglioni di questa ipocrisia. Mentre tutti quanti i telegiornali, i giornali, eccetera, eccetera, parlano della sostanza, cioè i rapporti guastati, distrutti tra Marino, il Vaticano, Monsignor Paglia che dice certe cose, eccetera, eccetera, il garante per la privacy avvia un accertamento in corso valutazioni. Perché non si è mosso quando abbiamo fatto piangere grazie a un finto papa il senatore del nuovo centrodestra Azzollini, che è rimasto in lacrime di fronte al papa che gli diceva: dimmi la verità, hai detto tu quella frase sulle suore? È vero che hai detto la frase alle suore? Vi piscio in bocca se non rispettate i miei ordini, se non siete i miei ordini. E nessuno si è mosso. Lo vuoi sapere perché? Perché Azzollini è considerato sporco e cattivo, senatore del nuovo centrodestra pugliese, dunque sì, non gliene frega un cazzo a nessuno della privacy di Azzollini. Invece quando si tratta del Vaticano, del Papa, di barche, di altre persone, tutti quanti alzano per fortuna non tutti quanti, qualcuno alza il ditino, in particolare i signori della privacy. Sì, però io lascerei tranquillo. No, ma io non voglio dire niente. Dico semplicemente che perché non si muovono su Putin e su Elton John? Perché non riguarda l'Italia? Perché qualcuno non ha alzato il dito quando hanno i due splendidi, meravigliosi imitatori russi di quella televisione russa, anzi l'imitatore di quella televisione russa, ha chiamato il finto Elton John e tutti quanti hanno detto: che meravigliosa burla, che meraviglioso scherzo, Putin che chiama Elton John il finto, fa fare una figura di merda Elton John, che figura di cacca Elton John. Però della privacy di Elton John non gliene frega un cazzo a nessuno. Invece, siccome c'è di mezzo il Papa, siccome c'è di mezzo il Vaticano, siccome c'è di mezzo il Presidente del Consiglio, siccome c'è di mezzo il Sindaco Marino, adesso il garante della privacy alza il ditino in corso accertamenti. Buonasera, mi dispiace disturbare. Ma non diciamo frescacce. Dico sinceramente, volevo scomodare il Santo Padre per questa cosa. No, guarda, sei bravissimo. Vorrei capire come sono andate davvero le cose. Dunque, le cose secondo me sono andate che lui si è brigato per sfruttare questa situazione, e per questo fa imbestialire il numero uno. Lo dico in toscano, sei imbucato. E certo che sei imbucato. Cioè, poi io non so che cosa ci hanno detto lui e il sindaco Natto, era un bravo uomo, una brava persona, però nessuno l'ha invitato cioè ufficialmente da parte nostra, assolutamente. Io con lui parlai una volta, ma così, insomma, il Papa era furibondo. Posso immaginare. Crozza e il Papa. Cioè Crozza, Marino e il Papa. Ma non gli nominare Marino, perché se gli nomini Marino gli parte immediatamente la brocca. Io Marino non l'ho invitato, è chiaro. Non me nominate mai Marino, che vescomunque. Io, guarda, de Marino non so niente. Marino in America mi è apparso come la Madonna, va bene? Crozza su Salvini e il visto negato. Tra l'altro c'è un mezzo giallo su questo, Parenzo, perché da una parte il console nigeriano dice che sì, in realtà la pratica è ancora in corso, cioè bisogna ancora esaminarla la pratica. Beh, giusto, no? La fanno aspettare. No, perché in realtà ha chiesto da poco il visto Salvini. Ah, ha fatto il furbino allora. Dall'altra, ha fatto il furbetto, ha fatto dall'altra Salvini. Salvini continua a dire che in realtà gli hanno restituito il passaporto senza il vistino, senza il timbrino. Bene, ottimo. Crozza la vede così. Povero Matteo Salvini voleva andare in Nigeria, ma gli hanno negato il visto. Che strano, proprio lui che ha sempre avuto una parola buona sugli africani, no? Salvini, ma di che cazzo ti stupisci? È come se Schettino chiedesse il permesso per andare al Salone Nautico a Genova. È evidente che non glielo danno, non è gradito. Allora, le fantasie di una giornalista che si chiama Maria Teresa Melli sullo scherzo a Marino. Fra poco ci collegheremo con il Campidoglio per una per capire quanto ha speso, al di là della questione del Papa, dello scherzo, Monsignor Paglia, la vergogna della privacy, del garante della privacy che ha avviato un'istruttoria, mentre altri 40.000 scherzi in Italia nessuno se ne interessa perché non colpiscono le alte sfere, il Vaticano, Marino, eccetera. E questo lo voglio dire ad alta voce e lo ripeto per tutta la serata. Qualcuno pensa che in realtà Paglia si fosse accorto che era un imitatore. Ma e dunque no, vabbè, questa è una fantasia, è una cosa assurda, dai. Questo no è. Meli. Poi uno che dice te lo dico in toscano, ma figurati se Renzi ce lo dice. Cioè, mentre vendo era un'imitazione molto riuscita. Esatto, io questa qui la trovo un'imitazione abbastanza. È molto costruita. Poco credibile. Quindi cosa ipotizzi, cattivissima Meli? Ipotizzo che Paglia sapesse benissimo di che cosa stava parlando e voleva dare il suo calcio nel sedere al povero Marino. Il che sarebbe ancora peggio? Ovviamente non è così assolutamente, no. A tutti quelli che dicono è palese che non è la voce di Renzi, ma è chiaro che non è la voce di Renzi. Beh, infatti non è Renzi, infatti è uno che cerca di imitare Renzi molto bene, secondo me. Imitare Renzi è molto difficile, è molto molto difficile imitare Renzi, perché di Renzi si possono fare le parodie, ma l'imitazione di Renzi è complicata. E per quello che si può fare nell'imitazione di Renzi, Renzi è venuto a mio parere perfettamente. Però sai, se ti squilla il telefono, esatto, ti dicono che è il centralino, poi, non so se sia avvenuto così, non lo so. Adesso accusare Monsignor Paglia di avere addirittura di sapere un complotto tipo Codice da Vinci, una roba, esatto, da Dan Brown, che sapeva che era un imitatore, dunque ha voluto dare un calcio a Marino. Adesso questo francamente questo non credo. Non rispetto per la Meli, di più, aiutami a dire di più. Rispetto normale, rispetto, non per le cazzate, però non per le cazzate, non ho rispetto per le cazzate. Non uso questo termine, questa è una cazzata. Io dico una sciocchezza. Tu dici una sciocchezza e io una cazzata. Secondo me, guarda, io ho ancora in testa questa cosa del garante della privacy, mi fa diventare pazzo, mi devi calmare oggi. Mi devi calmare oggi. Ma adesso lascia stare. Dammi un po' di bromuro. Mandiamo il traffico e poi c'è. Ma lascia stare. C'è Alessandro Onorato con noi, che non è onorato quello della cosa, della vela, è uno della lista Marchini. Signor Onorato, come onorato? Della lista Marchini, è l'uomo famoso di Marchini onorato a Roma, che ha scoperto quanto ha speso Marino nel viaggio a Filadelfia. Ma vai, l'ispettore Clouseau è onorato. No, ha fatto un lavoro Derrick molto. No, ha fatto un lavoro bellissimo. Adesso te lo dico, Vabbè. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Vabbè. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Vi presenta La Zanzara. Amici miei, siamo al flop. Allora, come annunciato, con noi Alessandro Onorato, consigliere comunale a Roma per la lista Marchini. Alessandro Onorato. Ciao Alessandro. Che hai fatto? L'ispettore Clouseau, come dice Parenzo? Ma no, vorremmo fare altro, però visto le attitudini del sindaco Marino qua dobbiamo fare un po' di tutto. Dobbiamo ingegnarci, anche perché non ci danno mai dati quando li chiediamo. La trasparenza è un optional, quindi tra insonne in Campidoglio e niente. Ma che hai fatto? Oggi, che hai fatto? Non ho capito, ti sei intrufolato nella ragioneria. Con un po' di militanti della lista Marchini abbiamo dovuto occupare, insomma, mi dispiace, mi vergogno quasi di dirlo, abbiamo dovuto occupare. No, l'occupazione no. La ragioneria, la ragioneria. Noi siamo contro l'occupazione generale. Occupare però la ragioneria generale del Comune di Roma, perché non ci davano i documenti. E secondo la legge, secondo il testo unico degli enti locali, vabbè, comunque è obbligato a dare i documenti sulla trasparenza, su quanto è costato questo viaggio. Io non ho capito una cosa, Marino cosa aveva detto a proposito di questo viaggio a Filadelfia? Beh, chiunque può andare sulla sua pagina Facebook e vedere che il sindaco aveva garantito che questo viaggio sarebbe stato gratuito. E invece quanto è costato? Zero, più di 16.000 euro per i contribuenti romani, quindi non c'è soltanto abbiamo una cifra dunque più di 16.000. C'è anche un modo che possiamo, io sì, ho avuto modo di visionare le carte, guardi, il tema è questo. Ma guarda che guardi, che mica sotto un anno. Scusate, il punto è questo. Marino è andato dal 23 al 28 settembre tra Filadelfia e New York, e questo ha voluto partecipare alle giornate mondiali della famiglia senza essere invitati né dal Papa né dagli organizzatori. Ha pensato bene di portarsi il capo del cerimoniale, il consigliere diplomatico, l'ufficio stampa e lui stesso, per quattro persone. Quindi, allora, da quanto abbiamo avuto modo di sono state pagate queste le spese per queste persone, non di Marino. Allora, per quanto riguarda queste le due persone, cioè il consigliere diplomatico, il capo del cerimoniale, il comune di Roma e quindi i romani hanno pagato tutti i giorni. Per quanto riguarda invece sì. il sindaco Marino e il suo ufficio stampa, abbiamo pagato le due giornate collegate a New York, cioè lui è stato anche a New York. Però il punto pratico qual è? Lui aveva garantito che tutto questo pacchetto non sarebbe sì. costato nulla e noi eravamo i soliti mistificatori che... Cioè l'aveva scritto, diciamo, specifichiamo questa cosa, l'aveva scritto. Chiunque può andare sulla pagina di Marino in questo momento, mentre noi parliamo, sì, magari sta in macchina, accende il cellulare e va su Facebook. E vede accostando la macchina, naturalmente, no? Ci auguriamo, magari il passeggero può guardare e verificare che aveva dichiarato un falso, punto. Aveva detto una bugia, avrebbe dovuto dire la verità. E cioè che lui voleva andare alle giornate mondiali del Papa. Sì. Ripetiamo, senza essere invitato, come abbiamo capito, né dal Papa né dagli organizzatori. Insomma, penso che almeno il Papa Marino, insomma, magari non lo smentisce. Posso capire che provi a smentire me, ma almeno il Papa. No, per adesso non ha smentito né il Papa né Monsignor Paglia, diciamo. Non ha smentito nessuno dei due. Per fortuna, forse Renzi finto, può darsi, lo provi a smentire. Comunque, battute a parte, la cosa in vereconda è questa: Marino continua a dire che va in giro per il mondo per promuovere Roma e prendere capitali da portare qui. Possiamo dire una cosa: che in due anni i capitali raccolti, l'85% sono mecenati italiani, quindi potrebbe rimanere a Roma e fare il sindaco. Vabbè, ma al di là di questo, è costata 16.000 euro, che non è una, voglio dire, è chiaro che stiamo parlando di cifre piccole, no? Per un bilancio comunale, sicuro. Rispetto al bilancio del comune di Roma è una cifra irrisoria. Però il problema è quello che dichiari. Se tu dichiari vado a Filadelfia, vado a New York e non faccio spendere un euro al contribuente, poi si viene a scoprire che in realtà per due collaboratori, per mezzo, per una parte del tuo viaggio, eccetera, eccetera, come ci stai spiegando tu e come hai avuto modo di accertare oggi alla ragione del comune di Roma, introducendoti lì, spero non illegalmente. Ho parlato proprio col dirigente che è andato in America. Che ha detto: abbiamo in bilancio 16.000 euro. Sono brave persone, sono dipendenti, sono dirigenti del comune di Roma e hanno ricevuto, diciamo così, un invito a partecipare a quella che doveva essere una missione comunale. Francamente, l'interesse di Marino è chiaro. Io non ho ancora capito qual è l'interesse dei romani della città. Nemmeno quello del Papa, missione. In realtà, abbiamo capito. Vabbè, noi. Quello non l'ha capito neanche il Papa stesso. Comunque 16.000 euro, circa 16.000 euro. Guardi, Marino ama tanto l'America. Il sindaco, se fosse stato un qualunque sindaco di una qualunque città americana, per questa cosa si sarebbe dovuto mettere da un pezzo, diciamo, no? Questo sicuramente, perché se tu dici è gratis, cose, no? Ma non doveva avere una cosa, avere una specie di... Guardi, poi c'è un altro tema. No, all'università non doveva pagare Marino per quella lezione che ha fatto. C'è quest'altra cosa che io non voglio commentare perché non ho visionato i documenti, quindi vorrei evitare querele e ho false conoscenze. Vabbè, tanto una querela più o meno. No, però è evidente a questo punto che sembrerebbe anche che il sindaco abbia partecipato a questo convegno all'Università di Filadelfia. No, quello è sicuro. E ci sarebbe un compenso. Oggi il sindaco ci ha fatto capire che quel compenso eventuale lo darebbe a una fondazione utile ai bisogni dei romani, allora di questo noi ne siamo contenti. Però quello del compenso è legittimo, che lui prenda un compenso se va a fare una conferenza. Cioè, questo guarda, non... compenso è legittimo, tutto è legittimo, posso dire? Allora, tecnicamente è anche legittimo che il sindaco voglia fare una missione se c'è un interesse pubblico. Quello che invece non è legittimo e che potrebbe anche far prefigurare quel reato di peculato è se tu utilizzi un qualunque euro dei romani per un fine che non è pubblico ma è privato. Cioè, francamente, perché ti porti il capo del cerimoniale, ma sì, ma è chiaro, consigliere diplomatico per andare a una festa, alla festa mondiale? Scusa, ma l'ha spiegato Paglia, tu ti vuoi fare bello per mostrarti con la cosa davanti al Papa, quello è quello che ha spiegato Paglia. Per questi i romani pagano 16.000 euro, questa è la mia sintesi. Dai, grazie onorato, grazie. La saga di Marino continua anche la zanzara finché il signor garante della privacy consente, finché consente dobbiamo chiedere il permesso al signor garante della privacy per caso. Lascialo sereno. Dammi Bromuro, giornale radio. Stavo ascoltando Radio Capital adesso, Zuccone è molto più divertente. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Benvenuti tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30. Con me c'è Carlo Genta. Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, sei purtroppo tornato. L'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati. I principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Il vostro livello culturale, il tuo è quello di Arezzo. O meglio, mi esprimo in modo molto elementare. Che titolo di studio avete? Questa mattina, caro Parenzo, il sottoscritto chiamato da Radio DJ con Linus e Nicola, sentiamo, sentiamo. Sono i carabinieri qui all'angolo, Ti stanno cercando? Stanno cercando da stamattina, però sto un po', no, sono rifugiato in qualche bar sotto casa. Ma, non so come. Hai carabinieri all'angolo per quello che è successo ieri, lo vuoi spiegare, Linus? Sì, anche la Guardia Svizzera Vaticana. Io avrei più paura di quella. Dall'America che gli chiede spiegazioni su quella frase che voi sicuramente avete mandato in onda 40.000 volte, come hanno fatto tutti, del Papa, dice io non l'ho invitato. Com'è che fa, Nicola? Com'è che fa? Io non l'ho invitato, lui si professa cattolico ed è venuto, ma non l'ho invitato. Che poi la cosa più bella di quella roba lì, ragazzi, non è il non l'ho invitato, è si professa anche per me, sai che lo dicevo a Linus questa roba qua, è proprio lì c'è tutto. Ed effettivamente la cosa più interessante di quello scherzo. Però lì... fammi dire, ma scusa, dimmi. Che telefono chiamavi? Cioè si sente male, si sente ovattato, sembravi Parenzo in collegamento. Ma non lo devi dire tu, no. Fallo dire agli altri, no. Ma questo dico io. Si sentiva in modo indegno. Ero con non telefonino si può mandare fuori. In onda una roba come dire, quella. Gli amici di Radio DJ, ma io lo devi dire a me. Lo dico a te che usi io il telefonino sempre collegato. Sì. Non si sente, perché non te l'hanno detto, non si sente. Non lo so. Male, perché. Ovattato, sembravi dentro la lavastoviglie, sembrava. Per loro effettivamente stavo vicino a uno di quei sei posti per extracomunitari dove vanno a mettere, no? A portare a lavare le cose. Tu perché vuoi risparmiare? No, ero accanto a quello. No, io vado in lavanderia oppure mi faccio. C'è un signore dello Sri Lanka che viene a fare le pulizie a casa mia. In regola? Assolutamente, sì, stai scherzando. Ma assolutamente. Il senatore Mineo dice che tra Renzi, no, assolutamente, che tra Renzi e Paglia c'è una familiarità dal regime. Addirittura. Senatore Mineo, Corradino, amico mio. Possessivo questo. Dai. A proposito della telefonata e dello scherzo del finto Renzi a Paglia, a prescindere dall'aspetto di Marino, è rimasto un po' colpito dalla familiarità, da quei rapporti tra... Sì, non c'è dubbio che tutti qua sono amiconi e anche questa è una cosa insopportabile da regime, nel senso che sarebbe bene insomma ricostruire le distanze. Anche questo si sentiva male però, Parenzo, anche questo dagli malissimo. Amici di Radio Campus. Ma non si può mandare in onda una roba che si sembra, ma io non capisco come lo mandano in onda. Grande Parenzo! Poi ci sono quegli stronzi al di là del vetro che mandano questa cosa qui dicendo grande Parenzo, è vero, hai ragione tu. Grande Parenzo! Ma chi è questo? Ma tu lo sai che c'è gente, poi faremo ascoltare delle cose meravigliose, c'è gente che ancora si emoziona per il fatto e credono che San Gennaro sanguini sul serio? Ma, io, ma questo però, io non però ci potevo sulle credere, credenze, dai. Ma no, ragazzi, però voglio no, dire no, sulle no, credenze no, religiose, no, no. Perché devi entrare su, su no, questo? Abbiamo, dai, ci sono no, già tanti no. nemici in giro per il mondo, il Vaticano adesso, cioè, perché devi aprire mille la Mecca? Perché devi aprire mille fronti? Cioè, pure, se pure uno... a Napoli San Gennaro, dice, quelli che allora, credono in San Gennaro. Non capisco, c'è cioè, la credenza popolare, c'è cioè, chi vuoi fare la lista dei nemici? Vuoi fare la lista dei nemici? Una lista lunghissima, cioè, i leghisti. No, i leghisti, no. Beh, abbiamo il segretario che viene qui ogni lunedì. Sì, ho capito, però per me ognuno c'ha i suoi, messi insieme abbiamo il mondo contro praticamente. Tutto non l'arco costituzionale. Tutto l'arco costituzionale. Non i leghisti, il Vaticano. I leghisti, il Vaticano. Quirinale, il Quirinale, non ne parliamo. Il Quirinale, l'ex inquilino del Quirinale, gli ex saggi del Quirinale, la Banca Centrale Europea, ma, so, la lista lunghi, il CSM. No, il CSM ancora no. Beh, no, no, no, no, no, no, no, non esageriamo. Sì. Vabbè, come diceva il nostro... Come diceva lui, tanti? Lui chi? Tanti nemici, molti nemici, molto onore. Tanti, tanti nemici. Molti nemici, molto onore. No, non molti, molti. Molti nemici, no, tanti nemici, molto onore. Non lo so, devi chiedere a questi fascisti che ogni tanto chiamano, che ti piacciono tanto, questi fascisti che ogni tanto infestano questa radio riportandola agli anni venti. Andiamo allora, avanti. Mimmo da Salerno, 800 24 00 24. Adesso che c'hai con Mimmo? Che cosa hai con Mimmo? Che cosa hai con Mimmo? No, niente, sentiamolo. Dai, su. Dottor Cucciari, buonasera. Dimmi, ecco, Mimmo, dimmi. Senti, chiamavo perché anche l'altro giorno avevo chiamato per dire un attimo una piccola cosa sulle file dell'Expo, scusami. Volevo aggiungere, se era possibile, mortificante. Ecco, questo è il termine più adatto, secondo lei, a dire che cos'è una persona che fa le file lì in Expo. A me lo dice, Mimmo, per me sono una vergogna, cioè fare la fila no, è vuol da dire masochisti. Che è un posto cool. No, non è vero. Sai non cosa è vero. Vuol dire? Vuol dire cool, che organizzano male le cose, prima. Ma cosa vuol dire? Organizzano male le cose. Comunque la fila è una vergogna, io non la farò mai. Chi è in fila è un... Secondo me... stavo dicendo una cosa pesante. Vorrei dire chiaramente al Bastian Contrario, che è sempre così lui, Bastian Contrario di tutto. No, con un ragazzino di 10 anni e io lo ci starò per 6 ore. Ma non la fare, non la fila. No, infatti io non l'ho fatto. Ma non bisogna farla, questa cosa. Noi lì abbiamo portato le nostre eccellenze nel mondo, giusto? Sì, e allora? E le nostre eccellenze non sono riuscite a trovare un sistema per non fare quelle file. Però scusi tesoro, se lei va al Louvre oppure al museo Sede Pari, ma lì è tutto l'anno, anzi alla Gardos, come si dice. Non riesco a capire se interrompo o no, mi scusi dottor Cuciani. Volevo dire la mia, nel piccolo, mentre facevo la fila, che l'ho fatto uno soltanto con un ragazzino, l'ho fatto per tre quarti d'ora, l'ho fatto, perché altrimenti il ragazzino l'ho portato inutilmente, ho fatto quasi 800 chilometri. Volevo dire questo, io nel caso stavo pensando, com'è possibile? È possibile anche che mettevano, davano dei numeri e a scaglioni ogni mezz'ora entravano 300 persone. Sì, ma si possono fare tante cose. Il problema è che non sono organizzati per farlo. E io dico che in generale la coda è mortificante, non è il sintomo di successo per forza. Spesso anche di disorganizzazione. Nicola da Pescara. Ciao, ciao, Nicola Pescara. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi, dimmi. E fatela una cazzo di tessera del PD, così il garante della privacy. Non sì, bravo, hai ragione, hai ragione. Ma Nicola, non puoi fare più uno scherzo, ma mandalo a cagare in diretta. Beh, adesso quello problema è che poi mi querela, allora, e poi c'è un altro. Allora, faccio però me, sono molto tentato, sono abbastanza tentato. Aspetta, guarda, sono ti abbastanza aiuto io, ma no, lo no, faccio no. Con la voce di De Luca. Dimmi. Allora, il garante della privacy, il sindaco di Roma, omuncoli. Ti è piaciuta questa? Personaggetti. Personaggetti. Certi personaggetti che senti, si occupano di privacy. Questi qua che si occupano di privacy. Com'è che farebbe? È meraviglioso. Aspetta, questi devo dire personaggetti. Non lo sa bene, non lo sa bene. Il direttore del sogno. Lo fa bene. Ascoltami, che è importante. Qualche giorno fa tu hai fatto ascoltare quella frase meravigliosa. Anche il Vaticano l'avete fatto arrabbiare. Quella Vaticano. Quella sulla Rai 3. Terribile, il Vaticano. Quella è aspetta, che abbiamo napoletano, direttore? Incredibile, quel Vaticano, telefonare dappertutto dal Vaticano. Criminale, due criminali. Scusi, due siamo in diretta con la Zanzara, direttore napoletano? Due criminali, fate presto, due criminali. Ma come criminali? Finiamo qua, dai, che chiudono la Claire qui. Chiusa la Claire improvvisamente. Nicola, allora che dicevi? Ascolta, la cosa importante, l'altra volta hai fatto sentire la frase meravigliosa su Rai 3. Tu non hai capito che quello è un epitaffio meraviglioso? Quale? Lui è quella della fabbrica di depressione. La più grande fabbrica di depressione al mondo. Ma come, allora, non è vero? A me lo dici? Io per me lo voglio fare padrone del mondo. Ha fatto una cosa che nessuno, che tutti gli italiani vogliono da anni. Ha chiuso definitivamente Rai 3. No, vabbè, ha quello messo, no, quello ha messo no. La pietra tombale. No, beh, adesso non ha il potere. Ma che dici? No, non ha il potere. No, ma no, ma non è vero, Nicolò. Al mondo. Ma scherzi. Ah, guarda, ha messo la parola fine su Rai 3. Riprendiamoci i soldi di Rai 3. No, però voglio capire da De Luca. Voglio capire da De Luca. Nicola, scusami, voglio capire da De Luca, adesso in collegamento con noi, Vincenzo De Luca, cosa pensa del garante della privacy? Del garante della privacy che vuole impedire gli scherzi alla Zanzara. Cosa, governatore De Luca, cosa ne pensa? Governatore De Luca, un personaggio. Ma no, un omuncolo, è al contrario. Ciao Nicola, no, scusa, ciao. Scusa, scusa, appunto, pensavo dicessi il garante della privacy. Appunto, personaggetto, il sindaco di Roma. Un omuncolo meraviglioso. Pubblicità, pubblicità. Sono in palio tre biglietti per tre biglietti. Adesso dopo vi dico tre biglietti per partecipare alla grande premiazione, dove c'è anche la Zanzara, ovviamente, delle cuffie d'oro di sabato. Vi dico dopo modalità, eccetera. Un grande concorso da qui a venerdì tra tutti gli ascoltatori della Zanzara. Occhio che siamo degenerati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presento la Zanzara. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. E fatela una cazzo di tessera del PD. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. L'unica salvezza forse è che io faccia la tessera del Partito Democratico. Faccio la tessera del PD, così il garante della privacy non ci rompe più le balle, Ripeto, quando abbiamo fatto lo scherzo ad Azzollini, il senatore Azzollini, nuovo centrodestra, considerato evidentemente brutto, sporco, cattivo, corruttore, pezzo di merda, eccetera, eccetera, nessuna. No, considerato, ho detto, considerato da qualcuno, ben pensante, eccetera, eccetera, un personaggio orribile, detestabile. Abbiamo fatto uno scherzo col finto papa, si è messa a piangere, situazione drammatica, eccetera. Nessuno ha alzato un dito. Nessun garante della privacy si è detto, si è scomodato per dire sono in corso valutazioni. Ora, siccome. No, questo è strano, questo è disonesto. Non è strano, è disonesto. Strano. No, è disonesto e ipocrita. È ipocrita e disonesto. Adesso, invece, siccome, giustamente, ovviamente, il Vaticano, per bocca di padre Lombardi, ha detto che è una telefonata inaccettabile, disonesta, e ci sta questo qua, naturalmente, alla reazione del Vaticano. Adesso il garante delle privacy ha sostenuto che c'è una valutazione. Ma perché la valutazione non la fa su tutto? Sulle decine di scherzi che ogni giorno vengono fatti nelle radio italiane. Perché non si può eliminare lo scherzo radiofonico, perché fa parte della storia della radio. Bisogna capirla questa cosa qui, bisogna capirla, bisogna che il garante della privacy lo capisca, se lo metta dentro la zucca. Lo fanno anche a Elton John facendo un finto Putin. Non è che Putin o Elton John si rivolgono al Tribunale Internazionale dell'AIA, diciamo, o della Putin, privacy dell'AIA. Putin ha altri metodi poi per mettere le cose a quello posto. Quello è un altro discorso. Signor Putin. È un altro discorso. Altri metodi. Però è chiaro? Cioè, sì, sì. Il finto Putin chiama Elton John, caso internazionale, non è che si muove il tribunale dell'AIA, non si muove il tribunale della privacy mondiale, non si muove nessuno, tutti ridiamo, non rompeteci i coglioni. Cesare da Roma, 800 24 00 24. Però vorrei fare una telefonata prima. Aia, all'albergo, no, all'albergo. No, questo è interessante. Tu sai Molla che del... c'è un gruppo italiano molto conosciuto adesso, molto in voga, molto di moda, che si chiama Il Volo, no? Sì. Credo che abbia vinto anche Sanremo, no? Che hanno vinto? Hanno vinto Sanremo, sì. Non lo so, non sono esperto di queste cose. Ha vinto Sanremo. Il Volo, comunque, sì. Il Volo, hanno fatto anche una prima serata su Rai 1, facendo credo il 23%, un grande risultato a livello di share. Un grande risultato di pubblico. I signori sono stati accusati da un albergo dove sono andati a fare una serata in Svizzera di avere devastato questo albergo. La solita cosa, no? Le solite accuse che si fanno nei confronti delle star, spesso è successo nella storia della musica. Addirittura di aver imbrattato di merda una stanza, perché non erano contenti della moquette. È un fatto di due giorni fa, ma tu non leggi queste cose perché sei troppo snob. Imbrattato. Ovviamente loro negano, il manager nega, questo bisogna precisarlo. Non l'ho letta questa notizia su Sole 24 Ore, no? No, su Sole 24 Ore no, ma noi non ce ne può fregare di meno che non hanno scritto su Sole 24 Ore. L'hanno scritta su tutti io i giornali italiani. Sole, sempre, no, non è vero, leggi tutto tranne che il Sole 24 Ore. Dopo ci ricolleghiamo un'altra volta col direttore napoletano. Questo non è vero, io leggo tutte le mattine. Facciamo un altro collegamento più tardi col direttore napoletano. Più tardi verso le 21:10. No, un po' prima. Allora, io proverei a chiamare questo hotel che mi chiama Hotel Dulac. Fatemi un po' il numero di questo hotel. Dulac? Hotel Dulac, credo, all'Osano. Dov'era? Locarno, Duca Ticino, Locarno. Beh, di là come sembra un bel albergo anche. Le tre stelle, loro si erano un po' lamentati per questo. Tre stelle, smentiscono tutto, Io proverei a chiamare questi signori dell'albergo. Buonasera. Sì, associazione Proteggiamo le Feci. Buonasera. Sì. Salve, buonasera. Senta, io volevo capire una cosa: se è vero che vi hanno imbrattato le stanze di merda. Mi dispiace, buonasera a lei. Pronto? Passano così il telefono i signori. Scusa, lì da quelle parti non apprezzano, diciamo, l'ironia e la sapidità italiana. No, però voglio dire una cosa: è strana una cosa in questa vicenda del volo. Che fino adesso io non ho visto, a me poi non me ne frega niente. Se hanno imbrattato di fece, pagheranno. Beh, è curioso, però. Sì, allora, fosse vero, non, però curioso. Non c'è una foto. Cioè, il proprietario di un albergo di solito, quando succedono cose del genere, i camerieri, le donne delle pulizie, donne e uomini delle pulizie, eccetera, che cosa fanno? Fanno le foto della stanza imbrattata di merda, devastata. Non ho visto mezza foto, non ho visto un nome sugli articoli scritti da vari giornali svizzeri. Non ho sentito nulla. Beh, il famoso segreto svizzero, no? Oltre al segreto bancario, c'è il segreto del volo sulle pareti. Va bene, dai, Cesare da Roma, 800 24 00 24. Cesare, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Siete fantastici, ma ogni tanto mi sale il sangue e il cervello. Figurati e devo fare stasera una domanda a quel tappetino di Parenzo. Occhio alla sciocchezza che arriva. Occhio alla sciocchezza, prego. No. Sentiamo la sciocchezza, attimo, forza. Poi comunque avanti me la incarti, dai. E mi rispondi sempre allo stesso modo. Aspetta, allora, Cesare, io voglio fare una domanda. Sentiamo. Voglio fare una domanda ad Andro, sì. Mercù, ad Andro Mercù qui in diretta. Dopo mi risponderà più tardi. Riflettici, perché di solito ci riflette, no? Che è il nostro imitatore, che è uno degli imitatori che abbiamo. Beh, che è quello che ha fatto Renzi, poi, no? Allora, in questo caso è preoccupato o no? Perché lui si preoccupa molto. Allora, la domanda è questo: ma tu sei è preoccupato o no? Sì, cioè, molto, oppure sì. Come dicono nella serie Gomorra, com'è che dicono? Deve stare tranquillo. Deve stare tranquillo, questo è il punto, no? Stai sereno, com'è che dicono? Stai sereno, stai tranquillo. No, quello dice Renzi. Stai sereno, dice Renzi. Quello che dicevano, quello della serie Gomorra, non mi ricordo. Vabbè, c'ho un buco in questo momento. Non lo so. Stai senza pensieri, devi stare senza pensieri. Secondo me deve stare senza pensieri. Senza pensieri. Cesare, vai. Ecco, allora la domanda era questa. Sì. Pietro Ingrao, 100 anni, ok, sì. Mi dispiace, senatore, ok. Vabbè, andiamo al risparmio, ok, per fortuna. Sì. Allora, la domanda è: perché No, aspetta. Ciao. Aspetta, che hai detto? Andiamo al risparmio. Che vuol dire andiamo al risparmio? Andiamo al risparmio. Facciamola breve. No, ha detto una cosa, cioè è morto, dunque risparmiamo sulla sua pensione. Questo ha detto. Ho capito, ma dai, 100 anni. Dai, Cesare, però abbia pazienza. A me non piace, come dire, l'elogio dei morti. Ah, facciamola breve. No, ha detto al contrario. Siccome è morto Ingrao, oggi sono celebrati i funerali, ha detto risparmiamo. Meno male, così abbiamo risparmiato. Giusto, Cesare? Sì, però scusa, per Andreotti non c'era una lira, ma i 20 milioni di euro lì per gli eredi si sono trovati subito. No, Cesare, però abbia pazienza. A me l'esaltazione delle persone post-mortem non mi interessa. Dunque, l'elogio che ho sentito di Ingrao, il grande dirigente, non mi interessa, sono perché tutte vengono sempre fatte ricostruzioni e valutazioni sui personaggi pubblici. Non mi interessano queste si cose, si chiamano qua. Coccodrilli, no? Ma non mi interessa, okay. Diciamo, l'elogio interessa, delle persone post mortem non interessa, ma a me non interessa, okay. Siccome questa è la zanzara, non è porta a porta. È stato un grande personaggio. No, ma tu hai detto un'altra cosa che è grave, però. Hai detto, soldi risparmiati, così non prende più la pensione da deputato. Ho capito, ma vedrai che adesso scatteranno altri due senatori a vita. Ma guarda che non era senatore a vita Ingrao, credo, eh? Cioè, ti voglio segnalare che non era. No. Ma non che senatore era a vita? È stato presidente della Camera, ma non era assolutamente senatore a vita. Prendeva la pensione dopo tanti anni da deputato. Come tutti, come molti altri. Per me è sbagliato, politici. Però comunque certo, non è che esulto sulla strada. Non è che esulto. No, è morto, non si può più buttare. Ho detto gli altri nella stessa condizione di Ingrao, buttateli sulla strada. Allora? Ma nemmeno io esulto. Allora, perché cantare Bella Ciao al suo funerale? E che fastidio, con i pugni alzati, e dov'è il problema? Bandiere rosse. Aspetta, fammi sentire la fine del ragionamento, no? Ragionamento, mi pare che sia l'intervento. e magari a qualche altra commemorazione dall'altra sponda, ecco, senti, se canti qualche altra canzoncina, senti? Ecco qua, vieni accusato di apologia al fascismo. Ecco la stupidaggine, però, arrivata. Però scusa, no, sul vediamo piano, se capisci la differenza. Sul piano formale, Cesare non ha tutti i torti. Ecco, immaginavo. No, ecco che è arrivato il soccorso nero. No, non è, ma non c'entra, a me non me ne frega niente. Forza. Neri e rossi. Sto dicendo. Allora, sul piano formale sul avete piano torto entrambi, vabbè, cornuti che non siete altri. Cornuti che non siete altri. Primo, sul piano semplicemente della legge. Sì, veloce, però rapido. Primo, Bella Ciao è una canzone partigiana. Partigiana, non comunista. Vabbè, lui dice una canzone partigiana, comunista, è una canzone partigiana. Si è alzato il presidente. Le rosse sono quelle del suo partito. Si è alzato il presidente della Repubblica. Secondo, cantare invece Faccetta Nera e fare il saluto fascista è un reato. Fine della discussione. Chiudiamola qua. Non c'è altro da aggiungere. Come rispondi? Ma non c'è da rispondere. Fallo rispondere. Hanno perseguito lì pure Viganio che ha fatto il saluto lì nello stadio. Me ne ho spiegato la differenza. Che lo facevano anche gli antichi romani. Quindi alla fine c'ha ragione il Berlusca quando dicono che tutti là giudici, magistrati e compagnia cantante sono di sinistra, perché che incriminano, per incriminano queste cose. Non ha capito la differenza. Per me uno può fare il funerale cantando quello che vuole, Faccetta Nera, gli slogan eccetera eccetera, anche Bella Ciao, le linee comunisti, non me ne frega assolutamente nulla. Trovo ridicolo chi vuole processare quelli perché fanno il saluto romano o altre cose del genere. Quello lo trovo ridicolo, cioè sicuramente. Marcello da Catania, dai Marcello. Pronto? Sì. Buonasera. Tra l'altro ti segnalo, Parenzo, che il PM che ha indagato il signore di Casa Pound per ti ricordi che venne da noi a dire a dire che Mussolini, il fascismo, faceva l'elogio del fascismo. No, il consigliere consigliere comunale di Casa Pound a Bolzano. Quello di Trento, Bolzano. Accusato e incriminato per apologia di fascismo, il PM ha chiesto l'archiviazione. Marcello da Catania. Benissimo. Sì, Marcello, aspetta un attimo. La Zanzara. Allora, prima di Marcello da Catania, un attimo di pazienza, Marcello. Un attimo di pazienza. Intanto, tre biglietti per le cuffie d'oro per la premiazione sabato. Credo ci sia anche Parenzo, delle cuffie d'oro alla Zanzara per il miglior programma di infotainment in Italia. Tre biglietti a chi interviene facendoci imitazioni, sketch, a chi ci fa divertire, a chi ci fa ridere. Dalle 19.46 800 24 00 24. Tre biglietti, se volete venire per vedere la Zanzara, per vedere tutti i protagonisti della radio, gratis, quello che com'è? Senza far la coda, senza, biglietti sì, gratis. Cioè potete entrare a Expo e alle cuffie d'oro senza fare la coda. Prima però io proverei a chiamare questa signora. Questa potete signora... fare anche la cena con Cruciani. No, questo non è vero. Sì, aggiungiamo. Ma non è vero. Mettiamo, tutto trasparente. Oh. E dopo la premiazione potete andare a casa di Cruciani a via, prendete nota, 43. Daremo anche la via e passare la notte a casa di Cruciani e a pulirgli il busto, a gli fare il bagno. Ecco, questo è il pacchetto completo. Tre persone potranno andare a dormire a casa di Cruciani dopo le cuffie d'oro, oltre a entrare gratis. Allora, c'è una signora che è soprannominata la dea della caccia, o comunque una che è di un'associazione di cacciatori veneta, che ha dato ha nominato socio onorario Stacchio, il benzinaio, a sua insaputa, all'insaputa di Stacchio, secondo me è socio onorario per quello che ha fatto, per avere sparato al rapinatore, ti ricordi, della gioielleria là. Il benzinaio Stacchio, cacciatore ad onore, pure cacciatore, ma insomma, premiato a sua insaputa, credo, da questa signora. Io vorrei chiamarla, questa signora, e chiedergli perché avete premiato Stacchio. Pronto? Signora Caretta? Sì. Buonasera, sono Cruciani, salve. Sì, buonasera. Come sta? Bene, grazie. Non la posso chiamare la dea della caccia? Se mi vuol chiamare la dea della caccia, lei mi può chiamare la dea della caccia. Ma non è una cosa negativa, No. Ma lo sa che ho visto le foto di lei che va a caccia, sono delle foto molto belle, molto significative, lei con la doppietta... No, guardi, ha visto male, non ho una doppietta, un semiautomatico. Ah, semiautomatico, mi perdoni, non so come spiegare. Quanti fucili ha lei, signora Rambo? Quanti fucili ha, signora Dea della Caccia? Rambo. Ho il mio fucile da caccia. Ma dico, di suo quanti ne ha? Cioè, di ho il mio fucile da caccia. Solo quello, solo un fucile. Uno. Certo. Sì, voglio capire una cosa, ma è vero che voi avete dato come associazione una... avete dichiarato socio onorario, nominato socio onorario il signor Stacchio? Sì, Graziano Stacchio, sì? L'abbiamo nominato socio onorario. Ma lui lo sa? E cosa c'entra? Certo che lo sa. E che ha detto? Mi sembra sia stato contento di essere stato nominato socio onorario. Sì, siamo sicuri? Questo è quanto mi ha detto. Ma che c'entra Stacchio con la caccia ai fringuelli o alle peppe? No, guardi, allora, io rappresento una confederazione di associazioni venatorie italiane. Sì, e appunto, Stacchio non ha sparato un uccello, però. Il signor Stacchio è un cacciatore. Sì. E abbiamo ritenuto per il grande gesto di altruismo che ha fatto di dargli questa... Sì, però lui non ha... Cioè, lui non ha, ha sparato a un rapinatore, non è che ha sparato a una... A una peppola. A una pernice, insomma, no? A una peppola. No, no, siete voi che comunque volete fare questa correlazione. Noi siamo, e io mi onoro di rappresentare una categoria di persone che sono cittadini dalla fedina penale perfettamente giusta. Appunto, ma nessuno mette in dubbio. Mi permetta, voi mi telefonate e mi date lo spazio per poter parlare. No, ma non si arrabbi. Allora, la differenza tra una peppola e una persona, io rappresento, guardi, allora, se lei vuole fare bagarre, io non ho tempo di fare bagarre perché sto lavorando. Calmiamoci, no, calmiamoci. Se lei mi vuole chiamare perché le devo dare una risposta, mi lasci lo spazio per poter dare una risposta in modo compiuto. Volevo solo la differenza che c'è tra la peppola e una persona. Se lei mi chiede, noi siamo, è mio onore di rappresentare una categoria di cacciatori, persone dalla fedina penale perfettamente pulita, perché comunque hanno il porto d'armi. Ma io figurati, sono a favore della caccia, io sono a favore della caccia, signora. Devono avere la... Non facciamo confusione. Sì, il fatto che il signor Stacchio abbia fatto questo gesto che io ritengo sia di un altruismo che non ha confini, perché ha messo a dura prova e ha messo anche ha sparato al rapinatore. Guarda, che per me ha fatto benissimo a sparare. Scusi, allora lui per difendere una persona, certo, per difendere una ha persona. Ha difeso una persona che però, c'entra diciamo lui che con le peppole. Da bravo cacciatore ha saputo mirare, perché se lui voleva poteva ammazzarlo. Ha mirato al ginocchio. Se le entrano dentro casa, no, dei ladri, lei che fa? Mi difendo. Cioè? Spara. Mi difendo. Sì, certo. Vabbè, ma è, per carità, ma come rispondo una porta aperta? Come si spara a una peppola? Va bene. No, come si spara un ladro? Come si spara un ladro? Come si spara un ladro? Lei mi sta dicendo che stanno entrando in casa mia, violano la mia proprietà privata. Sì. Bene? E io devo stare a guardare. Una persona, a me hanno insegnato che quando si va in casa degli altri si suona il campanello. Ma sì, questo se non c'è una dubbio. Persona con piedi di porco mi apre la porta blindata, questa persona sicuramente va accolta in maniera adeguata. Cioè con una la scarica. Maniera adeguata, le regole a casa mia le faccio io e la maniera adeguata è attenderle comunque con una 9x21. La scandalizza. Scusi, signora? No, siamo al top. La scandalizza questo? Assolutamente no. Non ho capito, scusi, con cosa attende. Una 9x21. Se uno non suona il campanello, una 9x21. Se uno mi apre, ripeto, che Parenzo forse ha saltato un pezzo, probabilmente il collegamento non è partito bene. Allora, ripeto, se una persona arriva a casa mia a trovarmi, suona il campanello. Se una persona mi apre la porta con un piede di porco, la attendo in maniera adeguata. Con una 9x21? Certo. Scusi, non sono un esperto, in che cosa consiste la 9x21? Una pistola. Beh, allora c'ha la pistola, non c'ha il fucile. C'è un arsenale, c'è in casa, signora. Sicuramente, guardi, ha un arsenale a casa. Maria Cristina, diamoci del tu. Cara Maria Cristina, io ho grande ammirazione. Ti sei eccitato all'idea delle armi? Beh, un po' sì, devo dire la verità, un po' sì. L'idea della donna Rambo ti ha eccitato? Beh, un po' sì, devo dire la verità, un po' sì, mi ha fatto scattare qualcosa, Ho capito. Ho sentito un brivido. Pensa che sei lì, stai vedendo il tè con la signora improvvisamente, boom, boom, ti siedi sul divano, che cazzo è questa? A casa mia suona il campanello e quindi non ci sono problemi. No, mettiamo dei rumori, sentiamo dei rumori. Sì, lei sente dei rumori che stanno cercando di armeggiare alla porta. Aspetta un attimo, si prende una pistola, immagino, no? Prende un'arma regolarmente detenuta. È denunciata. Questo apre la porta e che succede? Vieni e spara. Questo apre la porta e ha violato la mia proprietà. E dunque no, questo siamo d'accordo. se lei invece, no, ma che succede poi? Crucciani, ma io sono d'accordo con lei. Accoglie il malvivente e gli dice: accomodati, prego. Beh, ecco qui mia figlia, violentala, guarda, non ti disturbo. Ma per carità, ma cosa vuole? Beh, la secondo lei posso dire? Vuole tutti i miei gioielli? Prego, si accomodi. Scusi, signora Rambo, dobbiamo accoglierli così. Io credo che in questa Italia oggi ci sia la necessità di avere un pugno di ferro. Ottimo, va bene? Il pugno di ferro è bellissimo. Ma le sembra, secondo lei, posso una bella scarica di una bella scarica, va bene? Una bella scarica, va bene? Sì. Appena entra in casa, una bella scarica. Per sicurezza, così, per non sbagliare. Beh, stupendo, no? O no? Cioè, come mi hanno insegnato corso di difesa, farò un colpo in aria e poi, se il malvivente si spara a vista, mi verrà ancora incontro e continuerà a violare la proprietà di casa si spara. Allora ma le hanno detto dove è giusto sparare per ottenere un risultato, diciamo, dove bisogna... Non si preoccupi, ho una buona mira. Ha una buona mira, tutti hanno una buona mira. Non si preoccupi su questo. Ha una buona mira, cioè andiamo. Siamo sicuri che se il primo colpo lo faccio in aria, il secondo rimane lì nel pavimento. Sì, e se quello rantola, che fa? Colpo finale? Colpo di grazia? Colpo di grazia, la testa, la nuca. Stia tranquillo, se violano la porta di casa mia, che sono in casa, il primo colpo in aria e il secondo colpo nel pavimento. Abbracci. Un abbraccio a voi. Abbracci. Saluti, cara. Saluti, pistole in aria. Giubbotto di proiettile compro quando vengo dalle sue parti. Monellacci. La zanzara. Ormai è tutto degradato. Chiaro Parenzo, popolo della zanzara, annunciamo qui che abbiamus 3 biglietti per partecipare a Milano sabato sera, sabato 3 ottobre alle ore 21 alla premiazione delle cuffie d'oro, dove ci saranno qui tutti e due i cialtroni, cioè Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che peraltro cialtroni non sono, ma comunque, alla zanzara. 3 biglietti gratis, omaggio senza far le code. Alla fine della serata potrete andare a dormire a casa di Cruciani e usufruire di tutti i servizi che la casa offre. È molto piccolo, dunque non è possibile. Comunque, in ogni caso, 3 biglietti, chiamate 800 24 00 24, da qui a venerdì c'è tempo. Presentate i vostri sketch, le vostre imitazioni, fateci ridere, fateci divertire. E poi noi vogliamo premiare, naturalmente, chi vuole venire. Non è che diamo 3 biglietti così, i biglietti vengono consigliati brevi manu, possono essere ritirati presso la residenza di Milanese di Parenzo. No, non c'è nessuna residenza, residenza Milanese di Parenzo, e daremo più tardi l'indirizzo. No, ma ragazzi, è vero, però non è uno scherzo, noi scherziamo, però è vero. L'unica cosa che non li daremo ai fascisti, cioè c'è una pregiudiziale antifascista. Io ho una pregiudiziale antifascista. Cioè, se uno si chiama fascista, non ha diritto al biglietto, per me. Però mi hai dato un'idea sui cognomi. Bisognerebbe chiamare chi si chiama fascista, Mussolini. Pregiudiziale antifascista. Allora, detto questo, diamo qualche cifra. La prima cifra è questa: le 4 persone più ricche al mondo posseggono la ricchezza dei 47 paesi più poveri. Pazzesco questo. Cioè, le 4 persone più ricche al mondo, 4 persone più ricche al mondo posseggono la ricchezza dei 47 paesi più poveri. Secondo me c'è qualche emiro arabo. È accettabile o inaccettabile questa cosa? A me non me ne frega un cazzo, devo dirvi la verità, di questa disparità. È normale, è così il mondo di oggi, c'è poco da fare, non esiste un mondo migliore. Comunque, le 4 persone più ricche al mondo posseggono la ricchezza dei 47 paesi più poveri. Diamo anche un'altra cifra: nella sua vita un uomo medio eiaculerà 18 litri per 18 litri. Insomma, sono due argomenti molto diversi. Mi non capisco, meraviglio che l'inserto domenicale del sole potrebbe dedicare fino ad oggi dedicato articoli su questo. Però vi do solo due cifre su cui ragionare, vediamo che cosa vi interessa di più. La prima cifra è questa, ripeto: le 4 persone più ricche al mondo posseggono la ricchezza dei 47 paesi più poveri. Pensate che tutto questo sia inaccettabile, che tutto questo sia normale, che tutto questo sia nella regola, oppure il mondo è ingiusto, il mondo è una vergogna, eccetera eccetera. Prima cosa. Seconda cosa, ma anche questa è una media interessante, è comunque una cifra interessante: nella sua vita un uomo medio eiaculerà circa 18 litri, non mi dico di che cosa, ma insomma è chiaro di che cosa, no? 18 litri, pensaci bene, la vita media 18 litri. 18 litri, 47 pesi, 4 persone. Queste sono le cifre di questa sera, dai. Dobbiamo fare una rubrica così, le cifre della Zanzara. Sì, ma in fondo bellissima. È una radio economica, di numeri, di cose. Beh, cioè, scusa, ma sta... il primo numero è accettabile. Anche il primo è una riflessione giusta. Oh, ha parlato padre Lombardi sulla Zanzara, attenzione, parla la Santa Sede, il direttore della sala stampa vaticana, è una cosa seria, parla della Zanzara, non dice specificamente la Zanzara perché quindi non si abbassa nella sua, ma ha ragione, nella sua, no, nella sua, no, no, nella sua, che dica, la sua altezza, nella sua altezza, ma non disprezzare le cose, ma no, ma dico che ognuno fa il suo, lui non puoi pretendere, no, si può pretendere di... Se viene estorta, come dicevi bene tu, in un modo assolutamente inaccettabile, una telefonata di carattere privato che dice delle espressioni così che certamente non sono state pensate per essere dette in modo riflettuto in pubblico, queste non esprimono in nessun modo la posizione della Santa Sede e quindi secondo me non è neanche corretto prenderle troppo sul serio. Ci sono molte persone che l'hanno presa sul serio, dico solo questo, per carità, con il grande rispetto, enorme rispetto per il professore Federico Lombardi, il professore maestro massimo, monsignore, prelato, per carità, eccetera, però non mi sembra che la sua indicazione sia stata accolta da telegiornali, giornali italiani, eccetera, eccetera. Mentre bisogna prendere sul serio il modo assolutamente scorretto in cui queste dichiarazioni vengono estorte, come dicevi tu. Ecco, io sono un po' stupito che non si manifesti anche più chiaramente da parte dell'Ordine dei giornalisti, da parte di chi di dovere, una chiara censura, una chiara, diciamo, disapprovazione di questo modo di pensare di fare informazioni o di ottenere dichiarazioni. Io cerco di capire se vi fidate di Marino, se c'è fiducia in vista del Giubileo. E questo è il problema, secondo me. Lui, dunque, io ti posso assicurare una cosa, lui quando stava lì ha insistito per vederlo e per rivederlo. E questo ha fatto scocciare tremendamente Papa. Probabilmente Marino aveva qualcosa da farsi perdonare a Filadelfia, poi sta cercando in ogni modo un appoggio, ma è questo, sai, con il nostro non funziona. E certo, io non so come fare, però. Allora andiamo subito con gli ascoltatori. Chi c'era prima? L'abbiamo interrotto, no? Giuseppe dalla provincia di Bari, vai Giuseppe. Pronto? Dimmi Giuseppe, dimmi. Io volevo dare la solidarietà a due mattacchioni come voi per questa. No, non c'è bisogno, amico mio, non abbiamo mandato questa cosa per la solidarietà. Ho detto quello che dovevo dire, adesso non è che mi aspetto che ci sia. Per scherzare. No, ma vai tranquillo, però no. Sono contento che avete fatto questa cosa, perché insomma, mettere alla berlina i potenti, insomma, questi mamma santissima, poi insomma, è proprio bello, poi sentire padre Lombardi che cerca di mettere una pezza, guarda, è proprio... Sta godendo, lei sta godendo da morire. Avete colpito nel segno, praticamente. Va bene, grazie Giuseppe, vai. Enrico, Milano, vai Enrico. Enrico, c'è una bambina sotto, che c'hai, una figlia, che c'hai? Ho mio nipote. Tua nipote? Sì. Bene. Sta ascoltando, no, la Zanzara, tuo nipote, che fa? Sì, sta ascoltando anche la Zanzara. Ottimo. Quanti anni ha? Uno, due, quanti anni ha? No, hanno tre anni. Tre anni, vabbè, insomma, non capisce, dai, non capisce. Ancora, no, non capisce. Ancora è protetta, dai, dimmi. Sì. No, volevo dare ragione per il monsignore che ha fatto quella dichiarazione. L'ha fatta in buona fede, sì, o di proposito, ha fatto bene, perché si lecca culi qui, bisogna colpirli in tutti i modi, quando è possibile. Cioè tu dici, parli ovviamente del sindaco di Roma? Certo, di Marino. Che vuole farsi bello con il Papa a Filadelfia, a spese nostre, sono peraltro. Sono tutti ruffiani, che sono quelli che rovinano l'Italia. Beh sì, non ruffiani so se rovinano l'Italia. Non capiscono. Un po' esagerato questo, però. Ma no, non è esagerato. Ma fallo dire. No, tutti i dirigenti che vogliono farsi bello sulle spalle degli altri, sì, perché non sono capaci di gestire loro le loro cose. Beh, questo da un certo punto di vista non ha tutti i torti, Enrico. Cioè, certo. Chi non è capace di gestire in questo caso il sindaco Marino è considerato incapace di gestire Roma, cerca di mettersi in mostra cercando di apparire da accanto al Papa. Questo è quello che vuole dire Enrico. Adesso io traduco in un senso un po' più compiuto, però mi sembra così, no Enrico, giusto? Io ho avuto esempio dai miei dirigenti in azienda, tra le quali chi non era capace di fare niente si appoggiava sempre agli altri. Amico mio, non ha tutti i torti Enrico, però da un punto di vista, cioè chi non è capace cerca di leccare il culo, adesso io dico in generale, chi non è capace cerca di arruffianarsi le persone, cerca di rendersi amici, cerca di appoggi, no, aiuti, eccetera eccetera. Marcello Catania, grazie Enrico. Ragazzi, però non voglio una catena di persone, voglio soprattutto persone che vogliono vincere questi tre biglietti. Pretendo che chiamino all'800240024 tre persone che ci fanno divertire, imitazioni eccetera eccetera, quello che vogliono, ci fanno vincere e sono determinati nel vincere tre biglietti per l'Expo sabato. Vai Bruno, vai. Marcello prima Marcello, poi Bruno. Vai. Posso, finalmente posso, sono 45 minuti di attesa. Vai, Marcello, dimmi. Ciao Giuseppe, buonasera parente. Ciao. Salve Marcello. Beh, sono molto interessato al tuo pensiero Giuseppe, da un po' di giorni ti sento dire con insolita frequenza che bisognerebbe abolire tutte le religioni. No, ma io dico abolire le religioni. Diglielo. È ovviamente scusa. È ovviamente una esagerazione di un ateismo spinto, ma ti chiedo, siccome senza le religioni a mio parere il mondo starebbe molto meglio, ma questa è la mia convinzione. Diciamo, qualche esperienza che mi potresti portare per dire che questo già è successo nel mondo e effettivamente è stato bene? Io me ne viene qualche ateo che è andato al governo eliminando le religioni, te lo posso citare, da Marx, da Mao. Ma lì c'era una religione contraria, che era la religione dell'ideologia, se vogliamo. Cioè l'ideologia era una religione pure quella. Cioè l'ideologia comunista, fascista, quello che è. Guarda, era una religione anche quella, chiaro? Non so se fai parte dell'Unione Ati Agnostici Razionalisti Italiani. No, non ne faccio parte perché io non faccio parte di nulla e non mi iscrivo a nessuna associazione. Sono riconosciuti come religione. La non religione è una religione in se stessa. Ma quello è il rischio, diciamo. Il rischio potrebbe essere quello. Giustamente, perché non hai tutti i torti. Dire queste frasi dopo che da 2000 anni a questa parte, dalle catacombe in poi, qualche progresso dovremmo farlo fatto, sentire anche come forma di provocazione, sentire qualcuno dopo quello che è successo nel mondo a merito degli atei, sentire dire che bisognerebbe abolire le religioni, bisognerebbe starci attenti a dire queste frasi, Giuseppe. No, ma starci attento, questo è quello che penso io, senza le religioni, tutte le religioni a mio parere sono portatrici di estremismi, portatrici di fondamentalismi. Ma sono gli uomini, non le religioni, sono le persone. Ma è gravissimo, adesso ti faccio ascoltare due o tre cose da Napoli, dell'esaltazione che può... Ma guarda che se quello che stai dicendo è gravissimo, ma io ti faccio ascoltare quello che vuoi dell'esaltazione, io non penso che... Ma anche quella è la religione. Ma allora uno potrebbe dire che anche il tifoso è un esaltante, una forma di fanatismo anche quella, certo. Ma invece ci sono tifosi tranquillissimi e ultra, c'è una differenza. Certo, infatti, quindi non è il tifo in sé. Un Ratzinger è un cretino che crede nelle religioni. La tua esagerazione porta a dire questo. Allora, i danni fatti, qualsiasi cosa possa fare, ripeto, padre Francesco adesso per correggere alcune strutture della Chiesa, i danni che la Chiesa ha fatto, i padri pedofili, eccetera. Cioè, a proposito di cosa inaccettabile e disonesta, perché la stessa forza, lo stesso slancio, la stessa indignazione il signor Lombardi, che ripeto, rispetto, cioè non la mette nella condanna della pedofilia, delle migliaia di vittime della pedofilia in Vaticano, eccetera, passato, eccetera. In maniera molto forte, come adesso interviene subito sulla questione dello scherzo a paglia, perché con la stessa solerzia, e ci sono un sacco di casi aperti ancora, con la stessa solerzia non si espone sui preti pedofili, su quello che accade in tutte le parrocchie italiane, in molte parrocchie italiane, cioè perché non lo fanno? Perché non lo fanno e parlano di disonestà e di inaccettabilità? E la disonestà, mi sembra, e cose anche più gravi, sono da tutt'altra parte, forse dalle parti vaticane, forse nelle parrocchie, in diverse parrocchie, non in tutte, ovviamente. Ciao, pubblicità. I love you, I like a virgin. La Zanzara. Allora, iniziamo con Paco da Belluno, poi c'è Walter da Roma, Bruno da Napoli, Ciro da Napoli, Federico da Milano e altri ancora, 800240024, tanti ascoltatori, tante cose con noi fino alle 20:50, perché non vi perdete l'ultima parte della Zanzara, eh. Paco Belluno, vai Paco. Ciao, ciao Cruciani, ciao. Dimmi, Parenzo. Dimmi. Ascolta, io so che tu sei molto preoccupato del fatto che pratichi quello lingus. Sei preoccupato di avere beccato una malattia? Ah, io sì, sono abbastanza preoccupato dal fatto che il cunnilingus possa provocare il cancro, sì. Io ho la passione come te, però come non... Beh, la passione come te, ma tutti quanti penso che abbiano la passione del cunnilingus, molte bene. Persone. Come che ho una ricetta per te, però prima della ricetta volevo solo dirti una cosa. La ricetta per che cosa? Scusa, spiegami, Paco. Per prevenire, cercare di prevenire il cancro. Il cancro da cunnilingus, dici? Sì. Cioè il cancro da pratica di sessuale che chiamasi cunnilingus. Parenzo, conosci, no? Naturalmente. Sì, sì, sì, ma la trasmissione di servizio pubblico. Ma grande servizio pubblico, certo, sì, grandissimo, certo. Servizio però pubblico. Io come prevenire i tumori alla gola causati dal cunnilingus? Se lo chiedono tutti, del resto. Ascolta. Se tu non te lo chiedi, ma sbagli. Ascolto, se lo chiedo. Assolutamente. Prima, prima di questo, tu devi dire solo una cosa, no? Dimmi, caro. Allora, tu devi smetterla, sì. No? Io... Cioè, oggi sono stato molto contento, no? Sì. Di sentirti dire Italia di merda, un paese di merda, siamo un paese di merda, no? Quando le diciamo noi stranieri, qualcuno si arrabbia anche se permette di dirci su. Certo. E purtroppo è la realtà, è la verità. Perché tu quando io sento, quando parlo con queste teste del cazzo leghisti, tipo e Bonanni, e Bitonci, questa cazzo sei di merda, bravo, no? Che si permettono sempre di insultare gli stranieri, insultare i neri, insultarsi, dirsi su di tutto. Tu non puoi difendere una cosa del genere. Bonanni se mette a sparare a zero sui immigrati, sull'Islam, ma è un testo di cazzo. Ora. Non vedi com'è? Com'è? È un testo di cazzo, ma questi qua. Ma allora, noi li paghiamo, noi stranieri che siamo qua, che lavoriamo. Io lavoro in Italia da 22 anni. Sì. Ok? Ho sempre pagato le tasse, ho sempre lavorato. Cosa fai tu, fratello Paco? Cosa fai in Italia? Perché fratello Paco? Fratello, dai, cosa fai, fratello? Ma sai che io ho scatenato un hai scappellato? A Radio Padania. Ah, bravo, fratello, bravo. Chiama Radio Padania, tu, chiama tutti gli altri fratelli, digli di chiamare. Io ho detto a Pellegrini, e non l'hai messo a Cruciani, ho detto a Pellegrini che Parenzo... Sì. E il più intelligente dei leghisti non arriva neanche alla caviglia di Parenzo. Beh, adesso non esageriamo. L'esercito di Parenzo. Chi è che non l'ha messo? Che scateniamo tutti gli amici, no, fratello no, Paco, perché tutti gli immigrati chiamino ogni giorno Radio Padania Libera. Non possono insultarsi sempre, a insultarsi dissi su, ma e sì, noi gli paghiamo lo stipendio. Ti paghiamo lo stipendio, cazzo. Io sono qua che lavoro da 22 anni. Da dove vieni tu, fratello? Da quale paese arrivi? Ma perché fratello? Fratello, da dove arrivi? Io arrivo da Senegal. Ascolta. Dal Senegal. Ti prego, chiama ogni giorno anche gli altri fratelli del Senegal. Parliamo in senegalese a Radio Padania, tutte le lingue del mondo, a radio in arabo, in inglese. Adesso chiude. Meno male. Mi mandano in onda. Scusami, Paco. Beh, certo che ti mandano in onda perché fanno spettacolo, mica sono cretini. Però scusami, Paco, perché ti chiami Paco poi? Il nome rivoluzionario. No, ma Paco è un senegalese, non si chiama Paco. Senegalese è Abdoum Yassim, Laurence. No, sono tantissimi che si chiamano Paco. Paco è un soprannome che il Pape, si scrive Pape in senegalese. Come si scrive? Pape, certo. In francese. Pape di Uff. Allora, se c'è qualcuno che si chiama Papi. Senti, fratello, io voglio dire una cosa, fratello, fratello senegalese, ma a te piace donna italiana, fratello senegalese? Ma certo, perché hai dei piaceri? Che ne so, io ho lavorato per 10 anni, ho fatto un lavoro che consegnava roba nelle case. Che ti è successo? E non ti dico, guarda, sempre, ve lasciamo perdere. Chiamami Paco, cazzo. No, Pape, sei simpaticissimo, Pape. Che succedeva nelle case delle italiane? Nei condomini degli italiani, Pape. Io voglio parlare della Lega. Ma che ce frega della Lega qui? Lo sappiamo. Della Lega. No, ma aspetta, prima ti dico solo una cosa. No, aspetta, Pape, ferma un attimo. Ferma. Dammi soddisfazione un attimo. Ti faccio parlare della Lega, di quello che vuoi. Insulta Salvini. No, perché tu dopo mi metti giù. No. Che ti metto giù? Ma quando mai? Che ti metto giù? Che ti metto giù? No, fratello. Non è che se vuoi l'immigrato lo puoi prendere, capito? Ma che prendo? Io sto dicendo. No, perché lui ti dice poi mi metti giù. Non ti metto giù per niente. Ma perché ti devo mettere giù? Scusa, ma che me ne frega? Fratello, Paco, non si fa. Allora, Pape, che succedeva nelle case degli italiani? Spiegami. No, ma come per tutto Cruciano, io ho fatto un lavoro che mi permetteva di incontrare donne quasi tutti i giorni. Cioè. E dunque che succedeva? Io non sono un strafigo, però sono 1,90. Beh, 1,90, no? È 1,90. 100 kg e sono anche sportivo. Ecco, beh, 100 kg però sei pesantuccio, sei pesantuccio, 100 kg. No, soprattutto i muscoli cruciani, faccio 3 ore il palestra. Beh, immagino le casalinghe italiane che incontravi per il tuo lavoro, che cosa ti dicevano? Ti prego, dammi qualche chicca, regalami qualche chicca, pape. No, ma io prima di darlo, tu mi devi dare una promessa, okay. Devi fare una promessa. Ok, dimmi, pape. Ogni volta che queste leghisti sì. entrano a insultarsi, sì. tu ti devi difendere, devi dire la tua. Vabbè, adesso devo dire, dipende quello che dicono, no, dai. No, no, ma non è giusto, dai, fratello, sono questo... parente che deve spaccarsi la schiena. Per difendersi, deve spaccarsi la schiena per difendersi, o se no tu chiami uno di noi che entra nella radio. Guarda, una mia amica mi ha già scritto: ammazza che gnocco il senegalese. Una mia amica qui mi ha mandato subito un messaggio: ammazza il senegalese, perché sta ascoltando la radio. Beh, è vero, che ne sa, non lo può, però a lei gli basta poco. Si chiama radio, a lei basta poco. Appena detto nero, 100 kg, alto 1,90, questa è subito arrapata come una bestia. Io adesso ho una moglie che è anche una strafiga, è senegalese come me, una strafiga. No, fratello, perché non è sposato? In italiana, facciamo un bella, bella... No, ma tu sai che è cruciale. Allora, ascolta qua. Dimmi, ma tu sai, aspetta, devo dare il traffico, credo, però non abbiamo ancora dato il traffico. Il traffico, no! Il traffico è il problema. La Zanzara. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Allora, siamo in collegamento con il fratello Pape, detto anche Paco, da Belluno, in realtà senegalese, amico di Parenzo, molto amico di Parenzo. Non siamo mai conosciuti come fratello tifoso Paco, di Parenzo, tifoso di Parenzo. Molto tifoso di Parenzo, molto. In realtà uomo di 100 kg, 1,90, felicemente sposato, che però ci stava raccontando, oltre che il suo, come dire, sentimento piuttosto negativo nei confronti dei signori della Lega, che mi invita, come dire, in qualche modo a... Un sentimento normale, direi. A trattare male quando dicono delle frasi razziste. Non insultarsi, non dirsi delle parole, Cruciani, noi siamo delle persone. Però, normali, amico mio, siamo dimmi le tue, raccontami le tue avventure erotiche nelle case degli italiani, cosa è successo? Cosa è successo? Cruciani, tu sai benissimo, tu sei uno nero, uno negro, come dici tu, corretto. Corretto, vuol dire quello del caffè, corretto, nel senso che si comporta sempre bene, sempre pulito, chissà cosa, poi dopo, questa donna scatta qualcosa. Vogliono provare il nero, non c'è niente da fare, però vogliono provare il nero. Tu lo sai meglio di me. Eh beh, è successo spesso, no, Pape? No, non lo so, ma non molto, molto spesso, anzi, ci ho lasciato anche una figlia, pensa te. No. Ma tu che facevi esattamente, Pape? No, fratello, ma una volta, ma sai che c'è una famiglia qua che è una è rimasta incinta di me. Sì. Dopo 4 mesi me l'ha detto, e poi dopo loro non hanno neanche voluto farmi riconoscere mia figlia. Ma è una storia pazzesca, quasi da zero. Sai quella rivista? Ti giuro. Sai quella rivista, vero? No, vero, stupenda, quella rivista, Parenzo, cronaca vera. Incredibile. Perché? Allora, perché? Perché io sono musulmano. Sono negro, sono musulmano. Sì. No, parenti, non ho nessuno qua e niente. Tu cosa fai? Cambio religione? Ma non cambia un cazzo. La sposi? No, la sposo. E allora, era un'avventura. E com'è finita? Come è finito? Mia figlia è qua a 7 km, non riesce neanche a vederlo, non l'ho riconosciuto. Ma com'è, scusami, è mulatta? È mulattissima. Mulattissima. E tua moglie, e tua moglie che dice adesso? Ma lei non ci conoscevamo. Ma lo sa, però. Ma se manca altro, figurati, è venuta a vivere qua con me. È venuta a vivere, dunque, se te la sei portata dal Senegal. Perché no, l'ho portato dal Senegal. Realtà... Dopo questo episodio sono tornato in Senegal, l'ho conosciuto, l'ho sposato e l'ho portato qua. La realtà è che tu ti sei sposato con questa qua dal Senegal perché hai fatto dei casini qua in Italia pazzeschi. Guarda, io ho combinato tutti i colori. Ma questo l'ho capito subito. Ho capito subito. Ho la passione della F Total, cioè proprio ho la passione. Hai la passione, una passione smodata. Guarda, io ho combinato tutti i colori, però adesso basta, non ne combino più. Ormai ti sei preso la senegalese. Perfetto, me ne sono preso una strafigona, anche quella, se è proprio una roba. Vabbè, che quello siamo contenti per è te. È tutto da verificare. Poteva lasciar perdere. È tutto da verificare. Comunque ne hai combinati tutti i colori, hai messo incinta una, figli non riconosciuti. No, non riconosciuti non me le vogliono far conoscere, quello è il problema. Te ne sei fatte quante di donne italiane nelle case? Questo ha abbassato il telefono, che ha fatto? È pazzo? È caduto. Sarà arrivata la moglie di Paco. Recuperiamolo, fratello Pape da Belluno. Mario da Roma, Mario. Sì, buonasera, vi volevate divertire o vi faccio divertire? Facci divertire, dai, facci divertire. Lenta fiocca la cacca si chiama la poesia. Come si chiama la poesia? Ma tu vorresti, tu aspetta, Mario, tu per che cosa stai facendo questa cosa? Per venire alla Zanzara? Cioè per venire alla premiazione? Probabilmente sì. Per venire alla premiazione? Sì, ma, certo, ma poi devi venire, divertire. Poi devi venire, eh? Certamente, lenta fiocca la cacca. Ma che cos'è, una poesia questa? È una copropoesia, composizione escrementizia. Copropoesia, alle 20 e 27, signori miei. Poi abbiamo di nuovo Pape da Belluno, Pape esatto. Da Belluno, vai Mario, dimmi. Lenta fiocca la cacca per il Gulcinereo, gridi suoni di tonfi che non salgono dalla latrina. Dal trono rocche scoregge per aere si perdono, gemono come sospiri da un mondo lontano, dall'ano. Picchiano gli uccelli nel buco appannato, gli amici infogliati andavano e chiamavano. Orsù in breve o cari in breve, tu calma, tu indomito spintere. E lui rispondendo esclamò: io al silenzio verrò e uno stronzo farò. E dopodiché questa era lenta fiocca la cacca. Queste sono composizioni escrementiste. Ti ha fatto ridere, David? Siamo all'ermetismo proprio. Ti ha fatto ridere o no? Ermetico. Vabbè, comunque giudicheremo, ci sarà un comitato. No, ci sarà c'è un talento. Questo un è Mario. Sarebbe anche la mutanda. No, una sola, c'è una sola prova possibile. Adesso non possiamo così. Però censurate. Noi non censuriamo, che noi censuriamo. L'abbiamo fatto dire la poesia ai 20 e 28 col signor Squinzi che sente in macchina. Ma proprio l'avete fatto parlare, a me mi avete fatto dire solo. Ha una storia di vita, come dire, di vita comune. Io allora, guarda, un biglietto a Paco lo assegnerei di diritto, diciamo, oltre ai tre. I tre li terrei, però uno a Paco di diritto glielo assegnerei, questo sì. Allora, Pape. No, dimmi Paco, dai, cruciare. Paco, dai, voglio capire una cosa. Mi hanno detto una cosa molto seria, che in Senegal, Senegal il pene medio misura 15,89. Mi dicono dalle statistiche. Può darsi, cruciani. Sì, io ringrazio Dio, sono messo abbastanza. Sei sopra o sotto? Sono messo molto bene. Sopra o sotto questa media? No, penso di essere sopra. Sopra. E con questo chiudiamo qui. 20 e 28, ecco. Ma abbiamo subito dopo un grande ospite, grandissimo ospite, dopo la pubblicità. Sì, mi fate dire che col Papa con queste cose, con questi scherzi siete forti, guarda. Invesco per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta La Zanzara. Giuseppe, buonasera. Dimmi. E fatela una cazzo di tessera del PD. Allora, pochi giorni fa, ho sentito durante una trasmissione che noi amiamo molto, dedicata agli animali qui su Radio 24, caro Parenzo. Sì, certo. Una trasmissione condotta dalla signora Rosita Celentano, che abbracciamo fortissimo. Bravissima, peraltro. Abbracciamo fortissimo. Molto forte. Dove invitano gente che pensa di parlare con gli animali nell'aldilà. Dove invitano persone che fanno, come dire, che trattano gli animali esattamente come gli esseri umani, eccetera, eccetera. Tutto questo, come dire, questa teoria meravigliosa di personaggi. Dove teoria non sta per teoria, proprio teoria sta per, no, per questa per pratica, questo numero di persone, questo numero di persone, questa serie di persone. Ho sentito una cara amica che ho incontrato qualche mese fa, un compleanno in grandissima forma, uno dei personaggi storici della televisione italiana, del teatro, direi anche insomma dello spettacolo italiano, pronunciare questa del cinema. Adesso non esageriamo, direi dello spettacolo, pronunciare questa frase. Sì. Poi ho sentito ieri sera o l'altra sera, non mi ricordo, parecchi giorni, non mi ricordo più perché sono un po' rinco, però una trasmissione con Cruciani, La Zanzara, dove si parla della caccia, e dove praticamente c'era uno che diceva che non sopporta giustamente la caccia, e che se succede qualcosa ai cacciatori se la cercano. Infatti, è giusto, sono d'accordo anch'io. Se uno si porta il fucile, e invece Cruciani dice: allora sei contento per quello che si è ferito, si è ammalato. Cruciani, te lo voglio dire anch'io, che no, purtroppo non ti ho potuto chiamare, sono contenta anche io, non solo quello lì che tu gli hai fatto due palle. Come si dice anche io, Cruciani, grande. Che se qualcuno ti fa male, sono felice. Grande, oh. Marisa. No, Marisa, ma non puoi, dai, su, amica mia. Buonasera, ciao, ciao. Marisa, ciao, Laurito, ciao, è con ciao, noi. Cruciani, guarda che io ho vinto un premio per il cinema come migliore attrice protagonista straniera in America. Ho fatto anche cinema. No, tanto per dire. No, ma allora, lui il cinema non, ma no, non è poverino, non, sai, sa, io no, non conosce il cinema. Vabbè, ma questo non ce ne frega niente. Non ce ha mai visto Caffè Express, non ha mai visto Pari e Dispari. No, vabbè, voglio dire una cosa, Marisa, io voglio capire una cosa, ma perché sei contenta? Ma tu hai animali intanto, partiamo dalla base. Tutti, oh. Ragazzi, qua fanno cose inenarrabili agli animali, solo in Spagna non so quanti ne ammazzano, a cominciare dalla corrida, a finire per tutte le feste che fanno, che ne so, questi poveracci dei tori, gli fanno di tutto e ma di più, vengono incendiati, gli lanciano pietre, li evirano. Ma che pietre? E poi queste folle impazzite o folle che bevono. Ma lo sai che le palle di toro sono buonissime, le palle di toro. Io sono... ho fatto una trasmissione una volta figura sulle palle di toro, ho dato anche la ricetta, ma mi pare terribile. Ma scusa, adesso tu scusa, ma si mangiano hai, dato, le palle di toro. Hai dato una ricetta sulle palle di toro, adesso ci viene a rompere le palle a noi ma sul no, fatto degli animali. Ma ho dato la ricetta perché era una trasmissione molto spiritosa, ironica, dove davo appunto ricette esagerate, impossibili, che non bisogna mai ripetere. Le palle di toro, bravo, non è male come idea. Le palle di toro in padella. Potrei farla alla Zanzara questa cosa qui. Le ricette impossibili, le palle di toro in padella. Solo questo. Facevo anche i pipistrelli al latte di cocco o il boa ripieno di non so che, non mi ricordo più. Ma tutte cose vere, però, tutte cose che si possono fare. Tutte cose vere, ma terribili, ma non ma è schifose, questo. Dai. Allora, noi li mangiamo gli animali, quindi o in un modo o nell'altro ce li mangiamo. C'è chi non li mangia. Ma io non credo, veramente sei convinta? A parte che la domanda di Parenzo era una. Altra. La domanda di Parenzo è quanti animali tu hai sì, in casa? Ah, in sì. casa? Non avevo sentito perché mi sente sei un po' rinco, bene. Perché sei un po' rinco. Ah, no, e sì, infatti. Allora, io avevo tre cani, due purtroppo sono morti e ce ne ho uno solo un adesso. Cane, sì, un cane. Ma poi ho due gatti anche da un'altra vabbè. Parte, in un'altra. Insomma, ho animali, ho avuto animali di tutti i generi, ho avuto uccellini. Vabbè, cose normali, non c'hai animali. Non hai animali strani, non hai animali particolari. Non hai gufi, gufi. Non hai gufi, eh? Ancora a prendere un coccodrillo in casa, anche se fosse il coccodrillo in casa terrebbe le strade un po' più lontane anziché che la pistola, come diceva quella signora, esatto, prima, esatto. La Rambo femminile, la dea della caccia, la dea della adorabile caccia, nannina. Io... è un'immagine bellissima, la dea della caccia, bellissima. Ma di altri tempi, dai. Ma perché tu una pistola in casa non ce l'hai? Non te la terresti una pistola in casa? Ma no, perché se tieni la pistola poi a sparare. Beh. Se tu cacci la pistola poi devi sparare. Beh, diciamo che beh, hai ragione, è il motivo per cui io non tu hai il coraggio di sparare. Beh sì, è vero, è il motivo per cui io per esempio non ci penso nemmeno lontanamente, a parte che non me lo darebbero no, mai. No, ma poi non solo cacci la pistola e se quello fa prima di te ti spara lui. Esatto. Bisogna essere portati, non assolutamente, so no, su questo sono d'accordo con te. Però ma se uno sono contrario alla violenza in generale. Però vabbè, ma se uno si vuole armare, però Marisa, perché ha paura e pensa di poterlo usare, è tutto in regola. Ma che male c'è? Adesso quella era un po' esagerata, perché chiaramente no, diceva. Quella era un'invasata, dai. Era un sì, po' un'invasata. Quella è un po' esagerata, però voglio dire sì, che male c'è? C'è di male che bisognerebbe cercare di non reagire con violenza esagerata sì. alla violenza, perché sennò diventa un far west, le leggi non le rispetta più nessuno. Usciamo la mattina e sparammo, tutto quanto abbiamo finito. Abbiamo finito di fare tutto. Senti, no, io dico una cosa, ma perché sei contenta se muore un cacciatore? Per andare proprio alla questa allora, nocciola. Guarda, io ti vorrei fare felice. Fammi felice. Fammi a felice. Te ti farebbe felice che io dicessi in trasmissione. Ma l'hai già che detto. Cosa bella se muore un cacciatore. Ma l'hai già detto. No. L'hai no, già detto. Ho detto e dico ancora, se un cacciatore va in giro col fucile spara al cognato, al figlio, al fratello, nel culo del vicino di casa, che è capitato una volta anche a me, che c'ho una casa a Brescia, praticamente arrivano i pallini in casa, allora voglio dire, non si possono lamentare, perché il cacciatore è un essere umano che pensa, è pensante, quindi va in giro col fucile e quindi se gli succede qualche cosa peggio per lui, no, perché è cercata lui. No, però, ma non ti non puoi dire se l'ha cercata. Tu hai detto anche un'altra cosa. Hai detto se un cacciatore crepa per un incidente, eccetera, eccetera, in realtà, siccome ammazza animali e siccome tu sei contro la caccia, sei quasi contenta se muore. Dai. Ho detto che crepa, ho detto però che vorrei, questo non l'ho detto veramente nella trasmissione, ma lo dico adesso. Dillo. Mi piacerebbe che in queste feste che fanno, dove ammazzano gli animali, li sgozzano, gli fanno di tutto di più e si divertono, mi piacerebbe di fare una volta al contrario, cioè di mettere gli animali con un bel bicchiere di vino davanti, che si fanno quelle quattro risate, mentre gli uomini, hai capito, li frustano, li scuoiano, capito? Ma io non ho capito, tu sei contrario alla caccia, però te mangi la carne, te mangi... No, sto tentando di evitarla. Ma pure te sei cominciando a diventare vegetariana, aspetta, vegana, mamma mia. No, aspetta, io non voglio diventare vegana, io voglio raggiungere un equilibrio, come dire, sereno. Vabbè, noi siamo stati abituati da bambini a mangiare la carne, ci dobbiamo cibare. Adesso che ma però ti piace la carne, scoperto... Però. No, la carne non mi piace più, perché oggi quando mi portano una bella bistecca nel piatto, pensi io vedo immediatamente quella povera mucca, capisci? No, pure te così, pure te così. Ma sei secondo me fa pure male, guarda. Sei diventata carne, così, sei diventata così pure te, che appena guardi, appena guardi la bistecca, così, la fiorentina, appena guardi la bistecca, la fiorentina, ti viene in mente la mucca, l'animale. Ma sì, ma guarda, ma perché devo andare a caccia? Ma io dico con tutte le caccia, ma andate a, che ne so, a fare una bella caccia al tartufo. No, ma la caccia un'altra cosa, l'allevamento è un altro, cioè due cose diverse, la caccia e l'allevamento. Ma certo, l'allevamento è ovvio. Ma tu hai mai congelato carne, tu hai mai congelato gatti? Io? Cioè, no, quando ti muore il gatto, che fai? Che fai quando ti muore il gatto? Io ho un meraviglioso giardino, li seppelliamo tutti in giardino. Ma non si può fare, lo sai? Cioè, lo so, ma io lo faccio perché mi piace. Cioè, seppellisci i gatti in giardino, ma non si può fare, ma perché credo. Perché in campagna, scusami, che cosa teoricamente è illegale, dovresti fare un'altra cosa. Vabbè, insomma, cioè, allora, guarda. Ma pure con le croci, allora, che fai? Con le croci? Si possono bruciare, si possono buttare, si possono seppellire. Sì. Si seppelliscono gli esseri umani perché non si possono seppellire i cani. No, sì, ma tu con le croci lo fai? Fai una specie di coso, di lapide? No, la lapide non la faccio, non c'è bisogno, rimangono nel mio cuore, perché i cani sono meravigliosi, caro Cruciani. Ma sì, ma io non dico il contrario. Dico, no, i cani sono stupendi. Io ho avuto dei cani che sono stati degli esseri umani. Io avevo un mattino napoletano che si chiamava Gennarino. Come si chiamava? E pesava 100 kg quando camminava in casa. Gennarino. Pum, pum. Era proprio un uomo ma che uomo, ma quando mai? No, però capisco, per chi ha un cane è così. Ho avuto, scusami, da piccolo, ma, un cocker, per passare ad un altro argomento, tu credi in San Gennaro, nel sangue di San Gennaro? Allora, abbiamo tempo, non lo so. Allora, io non sono cattolica, diciamo, non amo le religioni in quanto regolate, regolamentate. Io credo che l'uomo abbia bisogno del misticismo, di rivolgersi a qualcosa che sta da un'altra parte, e ognuno lo faccia come più gli piace. Però in tutto questa, in tutta la storia San Gennaro non è solo un santo, il patrono di Napoli, è una contraddizione, un uomo, è uno che quando... Cioè tu ci credi, credi nel sangue, nei miracoli, io nella grazia? Io credo, allora i miracoli mi piacciono perché sono delle favole, quindi ci voglio credere, non è che ci credo, ci voglio credere perché mi piace, ma poi mi piace la festa, mi piace tutto quello che succede. Vabbè, una festa, un divertimento, è bellissimo. Vabbè, un divertimento. Ma poi San Gennaro non si può contraddire. San Gennaro, però tu non abiti a Napoli. No, io abito a Roma da 40 anni. Per però carità, Napoli è meravigliosa. Non ci torneresti mai ad abitare a Napoli? Ci tornerei, ma lavoro qua, come faccio a tornare a Napoli? Beh, però è complicato però vivere a Napoli. È complicata, è una città sicuramente complicata, però bellissima. Ancora complicata, cioè viverci, bellissima. Viverci è un casino, dai, viverci è un dramma, dai, è pericoloso. Allora, viverci è un dramma, come credo vivere sia incasinato anche in altri luoghi. Sì, però a Napoli, diciamo la verità, vivere a Napoli tu non ci torneresti perché un po' di paura ce l'hai a vivere a Napoli. Nata voto, ma paura di che? Altra volta. Ma che ne so? Ma che dici? Paura di che? No, lo so, magari. Ero ieri, sono stato a Napoli 2 giorni, mi sono divertita. Ti senti sicura a Napoli tu? Ti senti sicura? Dimmi la verità. Dimmi la verità, sinceramente. Ah, ma perché tu veramente dici questo? No, ma tu lo pensi veramente? Ma un po' lo penso, perché non è che ci sono anche delle statistiche. Ragazzi, ma scusate, ma io qua mi metto paura a Roma, che questi lì si stanno detto, hanno mandato la fotografia che vogliono incendiare il Colosseo, che mo ci sta il Giubileo, che succederanno il terrorismo, le cose. Beh, è una città particolare. Sono stati al centro di Parigi con Charlie, ma ti pare che professore... mi metto paura di Napoli? Però il professore De Masi da noi qui ha detto che il napoletano come te, ha detto che Napoli è una città violenta, molto violenta, tra le più violente d'Italia, ed è questa la caratteristica principale che proprio che timbra la città di Napoli, dunque è molto complicato, col cavolo che andrebbe allora, lì a vivere. Adoro il professor De Masi, ma non sono d'accordo con lui in questo, perché credo, poi bisognerebbe guardare le statistiche, perché le statistiche, quando io ho fatto la trasmissione, recitavano perlomeno 2 anni fa che la malavita era più al nord che non al sud. Quindi bisogna vedere, non so adesso le statistiche come sono ultimamente, però allora sicuramente Napoli è una città dove ci sono seri problemi. Comunque ragazzi, non andate nel giardino di Marisa Laurito, perché ci stanno un sacco dei cani e dei gatti seppelliti, che è una cosa c'è un fetore tremendo, perché non ce ne stanno tanti e sono meravigliosi, poi è in campagna, quindi figurati. Marisa, ciao, presto, ciao ragazzi. Cosa succede quando c'è San Gennaro a Napoli? Però il sangue che si scioglie. Senti un attimo, senti queste cose. Segnaliamo la notizia, grande duello, Renzi Berlinguer al TG3, meraviglioso. Cioè, Renzi Berlinguer su che cosa? Sulla Rai, ma chi se ne frega? Intervista Renzi che dice nessuno è detto bulgaro sulla Rai. Ma scusa, io ma non la gente, secondo te, la gente che ci sta seguendo, è interessata alla diatriba sulla Rai pubblica tra Rai 3, Bianca Berlinguer, Andrea Vianello, detto con tutto rispetto dei protagonisti. Andiamo, torniamo. Non gliene fotte nulla. Non gliene fotte nulla. Noi per forza. No, sesso, ti faccio sentire una cosa che la religione, ecco, la religione. No, limitiamoci qualcun altro. La religione dei musulmani, cinesi. Prendiamo di dire i cinesi. Ci sono pochi i cinesi. San Gennaro a Napoli, di poi milioni domani... di musulmani, andiamo sui miliardi di cinesi. Che cosa pensi dei cinesi? Ti fanno schifo i cinesi? No, no, assolutamente. Ma dillo, no. Che dichiara guerra alla Cina, dillo chiaramente. San Gennaro a Napoli. Perché sono Senti cinesi? Senti a cosa porta. Ma che occhi Aspetta, hanno i cinesi? Dai su, San Gennaro a Napoli. San Gennaro mi è venuto in sogno, mi ha parlato. Che cosa le ha detto? Ma non mi ricordo niente, mi ricordo solo che è un uomo molto delicato e non si offende mai. Perché lei tentava comunque di offenderlo? No, qualche volta me l'ha sorpreso, io c'ho un bel quadro grande a casa e lui mi ride sempre, anche se io gli parlo male. Qual è l'offesa peggiore che ha rivolto al santo? All'anima di te è morto, mi ha fatto passare sti guai. Sì, io credo, però non penso che si scioglierà. Si è già sciolto. Si è già sciolto. Allora credo. Ho ricevuto lo Spirito Santo con la canzone La Solitudine di Laura Pausini. Come son detto che la canzone, Madonna, feci così, dissi Dio prendimi. La solitudine tra noi, questo silenzio dentro me. E che senso? Però non succede niente. No. Cosa chiede a San Gennaro? Sono giapponese. Era un giapponese con la maglietta del Napoli. Cosa chiede che stava lì e là? Cosa chiede a San Gennaro? Sono giapponese. E con questo ci sentiamo domani 18:30. Mi raccomando, domani vi voglio scatenati per vincere questi cazzo di 3 biglietti per l'Expo. Domenica, sì, sabato per la premiazione di Cuffie d'Oro. Fischia la fine è finita. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri.